creare. La tua mente scorre tra i livelli. La tua mente scorre oltre il solito. La tua mente scorre nel passato, nel presente, in quello che verrà. Pensa alla tua coscienza, acconsenti il tuo pensiero. Crea in modo retroattivo prima e plasma le immagini in questione con il tuo attuare. Coltiva la forza interiore. Coltiva la tua fede in te stesso, coltiva la tua fede nei tuoi simboli, coltiva la tua fede nella coscienza. Al di là del discorso, al di là del parlamento, il tono, la volontà, il concreto. La tua mente scorre tra i livelli, la tua mente scorre oltre il solito, la tua mente scorre nei fondi. E nelle forme per formare ciò che si riflette sullo sfondo e nel pensiero. La tua mente scorre nel passato, nel presente e in quello che verrà. Immagina con le tue pendenze, immagina con le tue conoscenze, immagina che tutto si evolva, immagina il respiro della tua fede. Il tempo avanza in parallelo, si ossida e si rinnova. Il tempo avanza in parallelo, maturando l'immaturo e formando la trama e il sapore dell'esperienza con la qualità. Pensa alla tua coscienza, acconsenti il tuo pensiero. Crea in modo retroattivo prima e plasma le immagini in questione. Con il tuo attuare, al di là del discorso, al di là del parlamento, il tono, la volontà, il concreto. Lullo Cesare.